know I cannot to write forever. I know they will not surrender. I know I cannot to write forever. I know they will not surrender. Never. I know I can never. I know I can never. I know I can never. I know I can. I know I can. Ever can't wait forever. Passa, me l'hanno sempre detto, ripararsi con qualcuno a volte causa un brutto effetto. Quando anche le parole sono grandine che bucano il cemento. Quando chi ha un ombrello bucato ti dice sottostarei meglio. No, non è vero, no, io non ci credo. Quando il sole illumina la notte fisso fissi il cielo. Quando tutto è silenzioso, una goccia tocca il terreno, una lacrima sfiora il viso e tutto passa e tutto più sereno. Sul braccio ricordo delle notti sveglio e non mi accorgevo quante notti ho sprecato credendo che eri veramente sincero. Attorno le bugie si legano e quante volte le leggevo e credevo in qualcuno che ora vorrei vedere affogare davvero. Non può piovere per sempre, ascolta quello che hai attorno. Non c'è bisogno di guardarlo, lo si sente nel profondo. Nessuno vede oltre niente, io nel niente vedo la luce. Scordo la pioggia che scende, ora sento il calore che mi conduce. I know I cannot to write forever. I know they will not surrender. I know I cannot to write forever. I know they will not surrender. Never. I know I can never. I know I can never. I know I can never. I know I can. I know I can. Ever can't wait forever. I know I cannot to write forever. I know they will not surrender. I know I cannot to write forever. I know they will not surrender. Never. I know I can never. I know I can never. I know I can never. I know I can. I know I can. Ever can't wait forever. Mi hanno detto che non può piovere per sempre, che dopo il temporale le giornate sono stupende. Ora che la luce illumina e cancella il mio passato, annego il dolore sotto l'ombrello di chi avevo amato. Ora che il cielo piange, spezzo le mie catene, richiudo un vaso di Pandora che già so cosa contiene. Tutte le sue bugie, tutte le sue messe scene, il diavolo sconvolto di quanto sceno potesse essere il bene. Le giornate tutte grigie, resto sospesa nel tempo, aspettando che la luce spazzi via il cattivo tempo. Fulmina, squarcia il cielo, nei ricordi sto cadendo, questa è la verità. Ma solo ora la comprendo. Ora sento che il dolore va via con la corrente. Il cielo piomba nella calma, calma apparente. Il mondo brucia, la gente muore, ma il vero amore è per sempre. Forse avevi detto il vero, non può piovere per sempre. No, no. I know I cannot to write forever. I know they will not to surrender. I know I cannot to write forever. I know they will.